poi seguiò le leggi. Voglio che un sacro lodo in altro suol giurato, innanzi ai nostri al cor sia consacrato. Pria d'andar entro quel tempio, s'impotino gli dei. Alla lor santa Trinità temuta, si conti l'inni che l'amante brama, scolpesso queste muro. Oh,